Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci al podcast di Effetto Giorno. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e se volete contattarmi anche là, il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Speti. Andate a visitare il nostro sito internet che si è appena rinnovato, ci sono tante cose nuove, tante nuove modalità di interagire, nuovo accesso anche alle trasmissioni, la possibilità di commentare le trasmissioni medesime, la possibilità di vedere i nostri blog. Iniziamo. Il y avait 148 personnes à bord. Ed è la voce del presidente francese François Hollande, ed è la nostra notizia di apertura, quella che abbiamo trattato nel corso di tutta la trasmissione di oggi, ossia questo A320 della Airbus, della Germanwings, in volo tra Barcellona e Düsseldorf, che è precipitato in Francia. 150 le persone a bordo. Sono reati però che oggettivamente emergono molto tempo dopo rispetto al momento in cui vengono commessi. Ed è la motivazione con il quale il ministro della giustizia Orlando spiega in aula alla Camera nel giorno del voto sui nuovi provvedimenti per la prescrizione perché si intende allungare la prescrizione per i reati di corruzione. Al centro con tutto questo di una battaglia politica tra il nuovo centrodestra e il Partito Democratico, e quindi di una battaglia politica all'interno della maggioranza. La democrazia e la cultura sono più forti del terrorismo. Speriamo che lo siano davvero. Sono parole del ministro degli esteri Paolo Gentiloni in visita oggi a Tunisi, una giornata nella quale dovrebbe esserci la riapertura del Museo del Bardo, anche se nemmeno questo è molto chiaro. Sono caduti in questa trappola da 3-4 partite perché non si accetta forse che l'africano sia prima in classifica e quindi c'è una coesione contro di loro. Una storia che arriva dalla Calabria, la voce che abbiamo sentito è quella di un allenatore, l'allenatore di una squadra molto particolare, perché è una squadra composta solamente da immigrati e per 3 giornate di campionato di fila hanno subito degli insulti razzisti pesantissimi finché non hanno reagito. C'è stata una rissa, li hanno aspettati fuori, 60-70 persone, hanno distrutto una macchina, gli hanno lanciato pietre addosso. Sentiremo la voce di Domenico Mammoliti. Iniziamo però ed iniziamo dall'incidente aereo di questa mattina, quando appunto un Airbus della Germanwings, un Airbus A320, è precipitato in Francia, in Provenza, non lontano tra l'altro dai confini italiani, una zona peraltro molto difficile da raggiungere, gli stessi soccorsi sono piuttosto difficoltosi. A bordo 150 persone, 142 passeggeri e il resto, gli altri 8 erano membri dell'equipaggio. In volo tra Barcellona e Düsseldorf c'è una dinamica di quello che è successo non è ancora chiara. Perché non è ancora chiara? Soprattutto per la velocità con la quale questo aereo è sceso verso il basso ed è precipitato. Non una velocità abbastanza forte da poter parlare di un aereo che precipita, ma non abbastanza lenta da poter parlare di un tentativo di atterraggio di emergenza. La persona che abbiamo sentito si chiama Sergio Barlocchetti, è un giornalista appunto esperto di sicurezza aerea. Sentiamo che cosa ci ha raccontato, raccogliendo anche le prime informazioni. Dunque, l'A320 è un aeroplano affermato e comunque maturo, oltretutto l'esemplare in questione era stato rivisto profondamente già nel 2004 perché ha 24 anni di servizio alle spalle, il che non vuol dire che sia vecchio, perché sappiamo che gli aeroplani hanno dei programmi di manutenzione tali per cui si previene qualsiasi tipo di avaria sostituendo le parti molto prima che queste scadano o comunque sia possano ammalorarsi. Di questo incidente si sanno già molte cose, innanzitutto l'hanno trovato e quindi sarà molto importante vedere in che condizioni non soltanto si trova l'aeroplano, sentivo per esempio dei siti francesi che appare ai soccorritori quasi integro, beh naturalmente non potrà esserlo, però evidentemente bisogna capire anche in che condizioni ha toccato il suolo, nel senso che poteva essere già configurato per un avvicinamento piuttosto che era ancora in una configurazione di crociera, difficile se è rimasto intero perché sarebbe troppo veloce. Tutto farebbe pensare in qualche modo che questo equipaggio ha tentato di gestire l'emergenza, intanto l'ha dichiarata perché esiste un Mayday e pare, almeno così sentivo nei forum francese, che avrebbe dichiarato problemi con la pressurizzazione. Ciò che non torna è questa discesa, che di fatto è troppo lenta per essere una, diciamo così, apparrebbe troppo lenta per essere una discesa d'emergenza per la pressurizzazione e troppo rapida per essere una discesa, diciamo, controllata, perché stiamo parlando di 3500 piedi al minuto, quindi più di un chilometro al minuto, ed è un ratio di discesa eccessivo che lo ha portato appunto da livello 380 poi a quei 6800 piedi che sono 2200 metri, e quindi a schiantarsi nelle Alpi, insomma. Da cosa può dipendere, Barlocchetti, una discesa anomala di questo tipo? Naturalmente, posto che insomma che ci siano esperienze e racconti di questo tipo ed evidenze di questo tipo. Ma intanto bisogna vedere se poveretti questi potevano controllare l'aeroplano piuttosto che no. Se l'aeroplano era controllabile, una discesa del genere farebbe pensare al tentativo di raggiungere, un tentativo non riuscito di raggiungere una pista alternativa, e nella zona ce n'erano tanti, perché c'era Montpellier, ma c'era anche Nizza, volendo vedere, proprio riallacciandomi a quella strana rotta, la stranezza della rotta, sa che questo decollando, questo aeroplano decollando da Barcellona non ha puntato direttamente all'attraversamento della Francia, ma ha allungato verso est e quindi si ha proseguito sul mare per un certo periodo, salendo fino a 380 di livello. Se sei sul mare, hai un'emergenza che non ti consente di salire a una depressurizzazione, resti sul mare, perché la prima regola è: io faccio anche una discesa d'emergenza, ma devo rispettare le quote minime in sicurezza, non vado giù alla cieca fino a raggiungere un'altitudine che consenta all'equipaggio e ai passeggeri di respirare. Di fatto non è nemmeno vero che la rotta sia così a est da essere ingiustificata. Se in quel momento il controllo del traffico francese aveva delle congestioni, può tenere un aeroplano relativamente basso, non l'ha fatto, l'hanno fatto salire subito a 380, oppure si può deviare a destra o a sinistra a seconda di dove convenga, perché venga mantenuta quella separazione tra gli altri traffici. Quindi su questo non mi sbilancio. Quello che invece bisogna un po' vedere è veramente le condizioni dell'aeroplano, come sarà trovato, e naturalmente raccogliere i registratori di bordo, sia il cockpit voice recorder sia il flight data recorder, per vedere. Differentemente a quanto è avvenuto in Asia tristemente l'anno scorso e molti mesi fa, grazie agli hackers e a questi siti questa tragedia è stata seguita in diretta, nel senso che purtroppo chi è poi appassionato, eccetera, su internet vede immediatamente che c'è qualcosa che non va, e bisognerà anche vedere che tipo di emergenza è stata dichiarata, se è stata dichiarata soltanto via radio o se è stata dichiarata anche con il famoso transponder, sul quale si impostano dei codici a seconda del tipo di emergenza che sia a bordo. Ma fare ipotesi in questo momento è inopportuno, anche perché di questo disastro sapremo veramente tutto, l'indagine sarà magari lunga ma sicuramente accurata. Il fatto che anche noi abbiamo questi dati, questi tracciamenti via internet, vuol dire che anche la compagnia ce li ha, e quindi è anche molto più voluminosi dei nostri, quindi qualche idea giustamente saranno fatta loro. Sì. Le perplessità rimangono. Io, analizzando un po' le rotte, diciamo, di quel tipo di tratta Barcellona-Düsseldorf, non vedo nella rotta una diversità rispetto al solito, l'ha fatto più volte di deviare verso est, diciamo. Quello che naturalmente resta strana è questa discesa, sicuramente successiva all'evento, all'emergenza che si è scatenata a bordo. Non si capisce molto bene, diciamo, quali fossero le intenzioni, ed sì, è questo che poi le perché quello, è quello che ci dicevi in apertura, no? Troppo lenta per essere un precipitare dell'aereo e troppo veloce per essere un tentativo di atterraggio di emergenza. La faccio molto semplice per i nostri ascoltatori. Se andava dritto andava a Nizza, se devo decidere dove andare in emergenza avevo Montpellier, c'era Nizza, c'era Torino, sì, se si passava alle Alpi. E siamo alla politica adesso. il tema centrale di queste ore, come si diceva nei titoli di apertura, è la prescrizione, la legge sulla prescrizione, la nuova legge sulla prescrizione, che riguarda anche i casi di corruzione per i quali si prevede un allungamento e che è al centro di uno scontro interno alla maggioranza. Alessandra Schepisi. Fibrillazione nella maggioranza sui tempi di prescrizione con il nuovo centrodestra che alza la voce, il ministro della giustizia Orlando che prova a mediare. L'aula della Camera alla fine ha dato il via libera all'articolo 1 del DDL che allunga i tempi per alcuni reati di corruzione, bocciando così gli emendamenti identici di Forza Italia e il nuovo centrodestra che volevano sopprimere questo articolo. Per il partito di Alfano allungare i tempi rappresenta solo fumo negli occhi per quanti sono indignati dagli scandali degli ultimi tempi, ha detto la capogruppo di Area Popolare Nunzia De Girolamo. Per combattere la corruzione bisogna invece agire a monte e non incidere sulla ragionevole durata dei processi. Si cambi questo articolo, il nuovo centrodestra trarrà le conseguenze, aveva minacciato poco prima del voto il deputato del nuovo centrodestra Pagano, ma il PD si difende, il testo è equilibrato, nessun aumento irragionevole dei tempi, spiega il ministro della giustizia Orlando. Sentiamo la sua voce. Che quel tipo di reato si basa su un patto corruttivo che emerge spesso molto dopo al momento in cui questo patto si è concluso, e da questo punto di vista c'è una corrispondenza con una scelta che lo stesso Parlamento ha fatto quando ha deciso di allungare i tempi di prescrizione per esempio nell'ambito dei reati ambientali, reati che al di là del giudizio che gli si può dare nella gerarchia dell'esecrazione sociale, della riprovazione sociale, sono reati però che oggettivamente emergono molto tempo dopo rispetto al momento in cui vengono commessi. Questa è la scelta che sta alla base. Il ministro Orlando alla fine apre a possibili modifiche in Senato, dove il testo passerà in seconda lettura, disponibilità accolta con favore dal nuovo centrodestra che sulla questione mantiene il punto ma annuncia che non voterà contro, si asterrà in attesa di quanto appunto avverrà in Senato. Gli effetti, tra l'altro, delle norme precedenti sulla prescrizione si sono fatti sentire ieri nel processo Calciopoli e tornano a parlare i protagonisti di quel periodo, compreso Moggi. Diciamo che abbiamo scherzato per 9 anni e questa è una cosa che è spiacevole. Prova così Luciano Moggi, l'ex direttore generale della Juventus, a ridimensionare la decisione della Cassazione che mette la parola fine al percorso penale di Calciopoli. Ma a ben vedere, in attesa delle motivazioni, la prescrizione decisa dai giudici del terzo grado ridimensiona, sì, ma non manda in frantumi l'impianto accusatorio che aveva portato al processo dopo il più grande scandalo della storia del calcio italiano. Dei 36 imputati iniziali, 7 arbitri più Paparesta, la cui posizione però venne stralciata subito, il solo De Santis, che aveva rinunciato alla prescrizione, viene condannato ad 1 anno con pena sospesa. Luciano Moggi e Antonio Giraudo sono prescritti ma non assolti, come l'ex vicepresidente federale Mazzini e l'ex designatore arbitrale Pairetto. Bertini e Dattilo, gli altri 2 fischietti che non si erano avvalsi della prescrizione, ne escono invece più che puliti. La sentenza di condanna nei loro confronti è stata annullata. Rimane ancora aperto, invece, il capitolo dei risarcimenti alle parti civili. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca, che si mescola però in questo caso con la cronaca politica, perché oggi è la giornata nella quale la Commissione Giustizia del Senato inizia ad analizzare l'ipotesi di istituire l'omicidio stradale. In queste stesse ore c'è stato un nuovo caso di un pirata della strada, una persona che ha provocato un incidente gravissimo nel quale è morto un ragazzo di 15 anni. Questa persona adesso si è costituita, è un manager di 44 anni della provincia di Monza e Brianza, insomma delle stesse zone nelle quali è avvenuto l'incidente, mentre appunto in Senato si cerca di lavorare su questo, il servizio. Restano critiche ma stazionarie le condizioni di Nunzia Minichini, la donna coinvolta domenica nel grave incidente che è costato la vita al figlio Elio di 14 anni mentre lo stava accompagnando a una partita di calcio a Monza. Ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano, la donna ha subito la frattura di tutti e 4 gli arti e per uno di questi i medici stanno tentando tutto il possibile per evitarne la amputazione. Inoltre la donna ha subito un forte trauma cranico e uno addominale. La prognosi rimane riservata. E mentre le indagini hanno subito una svolta con il presunto pirata, un uomo di 46 anni di Vedano all'Ambro, accusato di aver causato l'incidente, che si è costituito ed è ora indagato per concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di soccorso, nel pomeriggio le associazioni a tutela delle vittime della strada terranno una serie di sit-in davanti alle prefetture di 24 città italiane per chiedere l'istituzione del reato di omicidio stradale. Intanto, proprio oggi, la Commissione Giustizia del Senato inizia a esaminare un DDL sul quale si discute da almeno 2 anni, che riguarda il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Riguardo all'omicidio stradale, sarebbe prevista la reclusione da 5 a 12 anni per chi causa la morte di una persona guidando in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Qualora dimostrasse che era lucido ma che andava troppo veloce, la pena potrebbe scendere tra i 4 e gli 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena potrebbe però arrivare fino a 18 anni di reclusione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'altra storia di cronaca è quella che vi accennavamo nei titoli. Si chiama Coa Bosco, questa squadra di calcio di immigrati che gioca in terza categoria, siamo in Calabria, a Rosarno, sono primi in classifica, sono già 3 partite che i giocatori vengono provocati, insultati, minacciati, una squadra che è stata messa in piedi da Don Roberto Meduri. Noi abbiamo intervistato l'allenatore Domenico Mammoliti, ecco il suo racconto. Io dico sempre quella frase di Papa Francesco che ultimamente si è espresso, quando ha detto io ricevo un'offesa una volta, due volte, la terza volta reagisco. Purtroppo i nostri giocatori hanno sbagliato a cadere in queste provocazioni, però io parlando con loro mi dicono ma noi abbiamo sentimenti, siamo persone, sì, non siamo fatti di pietra. Tra le frasi le dico io, perché non so se lei se la sente di dirle, e chiedo scusa, siamo in fascia protetta, negri di merda, dovevate affondare col vostro barcone e cose di questo genere, più o meno sono queste cose qua, no? Sì, queste sono. Perché poi alla fine, cioè, sono due episodi diversi, nel senso, una cosa è la scaramuccia, la lite o che può nascere nel campo dove c'è l'arbitro, ci sarà la giustizia sportiva, se i nostri giocatori, anche se sono caduti nelle provocazioni sbagliando, pagheranno, ed è giusto così che sia. Però una seconda cosa, che è quella da condannare, che del pubblico lancia delle pietre o che ti aspetti fuori 60-70 persone a inneggiare contro la religione o contro la loro razza. E così è successo, cioè addirittura lanci di pietre e sì, i giocatori aspettati fuori? Aspettati fuori per più di un'ora, ci hanno scortato i carabinieri e poi l'ultima macchina è stata assaltata dai tifosi e dicevano quelle frasi, insomma, negri di me, perché quelle che ha ripetuto lei, che ha detto lei prima. E poi che cosa è successo? È scattata anche una rissa in campo, da quel che ho capito, no? Sì, è scattata la rissa in campo, un nostro giocatore che, cadendo anche alle provocazioni, perché loro sono, noi abbiamo dei musulmani e dei cristiani in squadra, e c'è anche questa bella cosa di integrazione, però quando loro vengono insultate, insomma, sul discorso religione perdono un pochino la testa, cioè ci tengono tanto. Sono caduti in questa trappola da 3-4 partite, perché non si accetta forse che l'africano sia prima in classifica, e quindi c'è una coesione contro di loro. Perché la squadra di tutti stranieri è stata messa in piedi da Don Roberto Meduri, no? Sì, è stata messa in piedi da Don Roberto Meduri l'anno scorso, una squadra di soli africani, ma soli africani facenti parte della tendopoli di San Ferdinando, che è una zona dove vivono appunto questi immigrati africani che vengono nella zona di Rosarno per lavorare nei campi, per raccogliere gli agrumi. Sì, perché poi tra l'altro c'è stato anche questo tra le urla, no? Ci rubate il lavoro, poi insomma bisogna vedere quanti italiani vadano a raccogliere le arance nei campi. È anche questo, non è assolutissimamente vero, anche perché, e come dice lei, voglio dire, quanti italiani o quanti giovani dei nostri sarebbero disposti ad andare a raccogliere agrumi per 20 euro al giorno, per 1 euro a cassetta? Non penso ce ne siano tanti, e oltretutto lo spazio, se ce ne fossero, ci sarebbe per tutti, ma oltretutto il discorso è che alla fine forse gli italiani su questi africani, molti ci speculano e ci guadagnano, sia sul discorso del lavoro, sia sul discorso poi dei finanziamenti, sia sul discorso, insomma, di tante altre cose. Mammoliti, parliamo di sport. Quante partite vi mancano? Quanti punti di vantaggio avete? Allora, no, lo vincete questo campionato di terza categoria? Non lo so, vediamo. Domenica e sabato siamo andati in 12 perché contate, insomma, perché sei dei nostri hanno, perché ripeto, 3-4 partite, poi alla fine hanno paura, dice, di andare in questi campi. Il discorso, mancano 3 partite. Ora ci sarà il referto del giudice sportivo. Noi auspichiamo che è giusto che sia, che vengono squalificati i nostri che hanno sbagliato, assolutissimamente. L'educazione si impara anche da questo, perché devono anche imparare a non cadere nei tranelli, anche se sono ragazzi pure loro. Però c'è da dire che speriamo che condannino anche questi gesti, che non si ferma lì il discorso a solo a squalificare i nostri giocatori, e spero che, dato che le condizioni fino a che c'è stata la rissa c'erano per giocare, la partita sia ripetuta, e sia ripetuta in un segno di amicizia e di sportività. Mi dice un'ultima cosa, perché quello che mi accennava poco fa, ci sono dei giocatori che adesso hanno paura a scendere in campo? Sì, hanno paura, perché lei si mette un attimino nelle loro condizioni, cioè vengono da un altro continente, giocare a calcio in questa zona, vedendo, molti di loro non parlano nemmeno la lingua, sono arrivati da poco, vedendo questi problemi che ci sono, insomma, loro sono venuti per lavorare prima che per giocare, quindi alla fine non se la sentono di venire a non sapere che cosa potrà succedere, specialmente dopo sabato. Per chiudere passiamo all'estero. Mentre qualcosa sembra muoversi dal lato della Libia, perché l'inviato delle Nazioni Unite, Bernardino Leon, ha incontrato sia i rappresentanti del governo di Tobruk che quello di Tripoli, e a quanto sembra le dichiarazioni che ha fatto ieri potrebbero trovare conferma, nel senso che si potrebbe arrivare ad un governo di unità nazionale entro il fine settimana, e questo vorrebbe dire che dopo potrà partire una missione di stabilizzazione nella quale potrebbe avere anche un ruolo l'Italia. Vi rimando su tutto questo al podcast di ieri di Effetto Giorno, dove potrete riascoltare l'intervista che abbiamo realizzato col sottosegretario alla difesa Domenico Rossi. Mentre succede tutto questo in Libia, in Tunisia è stata una giornata importante perché è quella che doveva segnare la riapertura del Museo del Bardo. Su questo però c'è un piccolo giallo, come ci racconta Roberto Bongiorni. Prima doveva aprire con una grande cerimonia, i tunisini già festeggiavano il Rue Bourguiba con tutte le loro bandiere, inni, Je suis tunisienne, vive la liberté. Dopodiché questa notizia improvvisa, secondo chi si chiudeva per ragioni di sicurezza, come al solito, soprattutto alla luce delle inchieste che hanno portato a licenziare il ministro della Repubblica tunisina, l'ha annunciato ieri, licenziare una serie di figure di primo piano della sicurezza tunisina, nonché il custode del museo, perché non c'era al momento in cui sono entrati gli attentatori. Insomma, una situazione ancora caotica, quindi sarà anche prudente sulla riapertura oggi pomeriggio. Per il resto la società è ripresa a vivere in Tunisia, c'è molta molta preoccupazione sull'impatto sul turismo e sull'economia, anche se gli industriali con cui noi abbiamo parlato, compresi quelli italiani, sostengono che in Tunisia ci vogliono stare, e anzi vogliono rafforzare le loro attività per dare anche fiducia a un paese che tutto sommato è il primo della primavera araba ad aver portato con successo la transizione. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno. Ringrazio oggi per la parte tecnica Paolo Corleoni, che oggi, a dir la verità, ha accompagnato anche la diretta. Ringrazio tutti voi per averlo scaricato. Mi raccomando, iscrivetevi tramite il vostro browser o il vostro smartphone, in maniera da avere l'aggiornamento appena arriva la nuova puntata del podcast di Effetto Giorno. Vi apparirà una piccola notifica, un numerino che vi dice che avete la puntata da scaricare, così è semplicemente più comodo e non vi disturba. I contatti: Effetto Giorno @radio24.it, la pagina Facebook. Ci si sente domani alle 13:00.